e la vita mi sorride ancora come un ritorno da un paese lontano e mi dà una carezza sulla guancia. Niente ti può regalare niente, mentre i giorni passano da soli e ti fai quell'ultima che non potevi mai, e ti fai dire che sei ancora qui per noi, qui per noi. Vai e vieni, vai e vieni qua, ti riconosco dall'odore. Vai e vieni, vai e vieni qua, e non mi serve il tuo dolore, ma mi piace stringerti così, senza dire una parola, come nei film, come nei film. Ah, sciogli questo legame, ma non voglio più stare male. Come va di ritorno in questa vecchia realtà? Sì, lo so, è un momento che poi magari passerà, passerà. Vai e vieni, vai e vieni qua, mi lasci addosso il tuo calore. Vai e vieni qua, e non mi serve il tuo dolore, ma mi piace stringerti così, senza dire una parola, come nei film, come nei film. Il ritorno non è sempre casa, quando la tua vita lontano è cambiata. Addosso il tuo calore, vai e vieni qua, e non mi serve il tuo dolore, ma mi piace stringerti così.